con i tempi che purtroppo la burocrazia del Ministero ha presenta e ha presentato in questi casi. Quindi con il primo provvedimento si doveva capire che il Palazzo di Giustizia di Milano, che ospita normalmente dalle 7 alle 8 mila persone, poteva essere un cluster molto ma molto importante per la diffusione del virus. Questa esperienza drammatica in qualche modo obbligherà insomma anche a rivedere modalità stesse di fruizione del palazzo e anche del servizio giustizia. Col Presidente, con la Presidenza stiamo ragionando su come fare ripartire l'attività dopo l'11 maggio, a meno che il decreto non venga prorogato. L'11 maggio è la data con cui i termini di sospensione dovrebbero venire meno e si stava ragionando su come fare, perché qui l'obiettivo è evitare la presenza di persone, però ci sono situazioni che necessariamente comportano la presenza di più persone. C'è la necessità quindi di riscrivere proprio tutta la fase giudiziaria. Un altro pezzo del mondo di prima del coronavirus, che ora dovrà cambiare. I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra. In regia Paolo Corleoni. Per riascoltare questa e tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Seguiteci e scriveteci anche con vostre segnalazioni e commenti sulla pagina Facebook di Storiacce o via mail. Ci trovate anche su Instagram e Twitter all'account @RaffCalandra. A domenica prossima!